Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ehi, buongiorno! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. La vita è un letto sfatto, io prendo quel che trovo e lascio quel che prendo dietro me. Non siamo stati convincenti, mi dispiace, però andiamo via senza rimorsi. Perché se vince la democrazia e vince il no, è anche vero che noi abbiamo combattuto la buona battaglia con grande determinazione e passione. Come era evidente, è scontato, fin dal primo giorno, l'esperienza del mio governo finisce qui. La faccia di cemento, tu parli e non ti sento, io cambio e chi non cambia resta là. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Non gioco più, ti assicuro. Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri. Ringrazierò i miei colleghi per la straordinaria avventura, una squadra coesa, forte, compatta. E salirò al Quirinale dove al Presidente della Repubblica consegnerò le mie dimissioni. Tutto il Paese sa di poter contare su una guida autorevole e salda, quale quella del Presidente Mattarella. Me ne vado, non gioco più. Davvero. Avete capito come finisce un governo? Beh, devo dire che merito in un paese di gente attaccata col culo alla poltrona con l'attac, che non li schiodi neanche a raschiare con il... a buttare l'acido sulla colla, niente. No, Renzi ha perso e dice il mio governo finisce qui. Tra l'altro, faccia segnata dalle lacrime, giura Repubblica. Per il Corriere della Sera la Boschi in lacrime col rimmel che si squaglia. E vabbè, e qui iniziamo con le immagini tipiche sulla presunta debolezza femminile. E allè, e questo succede. Signori, intanto abbiamo iniziato un po' prima, come avete visto sono le 6:15, non prendete l'abitudine. Questo è 24 mattino, ma il momento è ovviamente serio, molto, molto importante dal punto di vista istituzionale italiano. Dunque hanno vinto i no, nettamente. La riforma non passa. 50, praticamente 60% di no, 64%. Io avevo fatto un pronostico, devo dire, l'ho perso, adesso posso svelare. Avevo fatto un pronostico con Stefania Cavallaro, ci avevamo giocati un caffè. Avevo detto 60-40, quindi ho vinto, solo che io avevo detto 60-40 per il sì, e quindi ho perso, cara Stefania Cavallaro che starai dormendo, caffè pagato, la scommessa è persa, caffè pagato. Pagherò al più presto, promesso. Allora, intanto, che dire, c'è chi esulta e c'è soprattutto i 5 Stelle. Nel buchio. Chi è? Là dentro, non allontana il crotone. La Padula! La prima gioia, San Siro! Sono 3 punti e ciaone. 3 punti e ciaone. Cos'è? Non si può dire la stessa cosa della domenica calcistica, o meglio del venerdì calcistico, di Umberto Brindani, che saluto, direttore di oggi. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, non voglio infierire, perché, non voglio infierire. No, ma è strano perché di solito quando ci colleghiamo dopo una partita dell'Inter ultimamente andava bene. Andava bene, insomma, andava bene. Adesso mica è sempre derby, mica è sempre derby. Mica è sempre domenica. Infatti. Mica è sempre domenica. Allora, Umberto Brindani, direttore di oggi. Il derby invece c'è stato a Roma, ma d'altronde voglio salutare Flavia Perina, che però è un po' agnostica, mi sembra di capire, agnostica. Sì. Flavia, mi piace, buongiorno, buongiorno. Però, ma agnostica, quando finite la sezione calcio, poi sì, poi parliamo delle cose. Parlate anche con me. Io sì, nella sezione calcio mi astengo. Dopo parliamo delle cose poco serie, finito il calcio. No, ma agnostica più giallorossa o agnostica bianco-azzurra? No, giallorossa. No, ah, vabbè, allora. In casa qua c'è un grande braccio di ferro, una grande divisione, perché io ho un figlio della Lazio e due figli della Roma. Insomma, sono giornate difficili. 2-1 per la Roma, sì. Va bene, per i figli della Perina in realtà, sì. 2-0. Allora qui bisogna parlare di quello che succede. Ovviamente gli scenari: Renzi se ne va, Renzi perde e se ne va. Oh, io devo subito dichiararlo, lo dichiaro, così mi attirerò gli insulti di tutti quanti, eccetera. Io lo dico, Brindani ha votato sì e si sapeva già. Perina, come ha votato? Si può dire? No, io non faccio endorsement su questo voto, lo ho deciso all'inizio e continuo così. Ah, anche dopo. Allora io lo dichiaro, sono uno di quelli, lo so, adesso mi odieranno tutti. Io non ho votato. Io ho trovato insopportabile questa campagna elettorale, ma come tutte le campagne elettorali, ma questa di più, insopportabile. Una campagna elettorale che era su un referendum per cambiare la Costituzione è diventata una campagna elettorale per: volete buttare giù il governo o volete tenere questo governo? Ecco, io a questo mi sono rifiutato, perché se votavo, magari studiavo la Costituzione e c'erano delle cose sicuramente da cambiare, eccetera, votavo sì. Ah, renziano! No, la Costituzione si stava votando, no. Se votavo no perché era una riforma un po' pasticciata, effettivamente, un po' grillino, no, cioè, qua ci vorrebbe veramente il Cruciani in fondo, dice, ma andate a fare, no, questo non lo faccio. Ma Brindani, insomma, non ho votato, va bene, e questo conta zero, perché parliamo di altre cose. Ma che succede ora? Questa è la questione. Intanto ti stupisce questo Renzi che prende e se ne va? No, non mi stupisce, ma io, è vero, io ho votato sì, ma non ho votato Renzi. Ho votato sì perché spero e speravo in un governo, cioè io sogno una situazione come quella, per quanto paradossale, degli Stati Uniti, in cui addirittura vince Trump e quelli hanno già finito di litigare, o comunque litigano entro i confini, diciamo, della civiltà democratica, e presto avranno un nuovo presidente e un governo che funziona. Sì. Adesso da noi è il caos più totale. Quello è vero, caos. Questo sì. Quello che io speravo che venisse evitato era che Senato elettivo, non Senato elettivo, CNEL o non CNEL, alla fine ci fosse una, come quella che si chiama la fine fisiologica della legislatura, il governo, qualunque governo, in questo caso Renzi, continuasse a governare, poi Renzi, una volta che si va alle elezioni, viene bocciato alle elezioni politiche, non attraverso una cosa surrettizia come il referendum costituzionale. E adesso fare previsioni è impossibile. È impossibile, ma adesso cercheremo di farle, perché già i giornali, però guarda qua i titoli, ovviamente è il trionfo, come dire, dei giornali. Il giornale, Renzi va a casa, caratteri cubitali, La Verità, ehi fu, e le porti un bacione a Firenze, Renzi fa le valigie, Libero, Il Manifesto, cosa titola, eccolo qua, Il Manifesto, bello, ciao, e così. E poi ci sono ovviamente tutti i giornali più istituzionali, l'onda del no. Flavia Perina, intanto adesso vedremo che cosa succederà. A me ha colpito una cosa: come sempre lo sport più diffuso nella sinistra, nel Partito Democratico, quello di accoltellarsi a vicenda, sono quelli che esultano di più. Altro che mucca nel corridoio, c'è un toro, Bersani, ma con soddisfazione. E adesso non lo so, però cioè, sono quelli che godono di più all'interno dello stesso partito, non è una cosa ma un po' strana? È una orribile sindrome italiana dove le guerre di corridoio, le guerre interne prevalgono sempre sui ragionamenti, su altri ragionamenti. Tra l'altro in questa circostanza si dovrebbe dare collettivamente atto a Renzi del fatto che magari non ha saputo vincere, però è un uomo che sa perdere. Questo sì, nel senso questo che sì. Sia nella circostanza precedente, quando perse le primarie del PD, sia in questa circostanza ha dimostrato anche col suo discorso di ieri sera una capacità non comune di affrontare la realtà, non si è nascosto dietro. Le proporzioni del risultato rendevano impossibile qualunque altro modo di comportarsi, però lui lo ha fatto bene. Dopodiché adesso, se vogliamo continuare a andare avanti a lacerare questo paese nel, appunto, come se fosse un derby calcistico, con le prese in giro, con l'irrisione, con il vai victis, davvero finiamo male. No, il paese va a catafascia, ecco, infatti. No, ma io in questo senso però non condivido tanto l'interpretazione un po' catastrofista di Brindani, perché alla fine non è che è il caos. Domani o dopodomani Renzi salirà al Quirinale, il Quirinale darà un qualche tipo di incarico e nell'arco di un periodo ragionevole avremo probabilmente l'ennesimo governo tecnico, governo di scopo, governo di qualcosa, ma un governo delle cose che chiuderà la partita. Sì, tra l'altro incarico a chi? Guardate qua i nomi, si parla sempre più di Padoan è la persona, ministro delle finanze, che potrebbe essere lui. Oppure si dice Del Rio, ma Del Rio ha detto per carità, io anzi vorrei tenere in piedi il governo Renzi. Si parla di... E poi ecco, questo è un altro riflesso incondizionato. Caro Brindani, cara Perina, e guarda qua i nomi che escono sempre. Giuliano Amato, Romano Prodi. Cioè escono sempre in ste situazioni, sempre gli stessi, sempre. Ma Giuliano Amato, le risorse della Repubblica, sì, ma esiste di collocazione fino alla quinta età. Sì, esiste un periodo della storia in cui Giuliano Amato non sia stato fatto come nome, ma non ce l'ho con Giuliano Amato, Brindani, non, per carità. No, ti sei dimenticato Piero Grasso. Piero Grasso, sì, beh, no, Piero Grasso però nuovo, stavolta è più nuovo e anche in pole position insieme a Padoan. Forse è più credibile insieme a Padoan a questo punto, anche perché Brunetta ieri sera l'ha detto chiaramente. Adesso tocca a loro, tocca al PD indicare il prossimo presidente del Consiglio e ha fatto due nomi, ha fatto quello di Padoan e ha fatto quello di Grasso. Di Grasso. Però guarda che non è che adesso succederà il caos, è chiaro, cioè siamo un paese credo abbastanza vaccinato di fronte al caos, con non so quante decine di governi nell'arco degli ultimi anni. Però è anche vero, Flavia, che bisogna considerare che quello che sarà comunque un governino, non un governicchio, cioè sarà un governo che sarà chiamato a fare la famosa legge elettorale, perché a questo punto siamo nei guai, cioè abbiamo una legge elettorale che non tiene conto del Senato, sarà, se si va a votare adesso si vota col proporzionale. Insomma, sarà un governo sicuramente in tono minore. Che è come chiedono per esempio il 5 Stelle. Il 5 Stelle chiede di andare a votare subito. Esatto, comunque sarà un governo che dovrà condurci alle elezioni, che non saranno domani, ma saranno fra qualche mese, come minimo. In primavera. E quindi siamo ancora in piena campagna elettorale. Certo. Infatti abbiamo appena finito. Abbiamo appena finito la campagna elettorale. E ne inizia un'altra, certo, perché Salvini chiede il voto subito, 5 Stelle chiedono il voto subito perché con l'Italicum secondo i sondaggi il 5 Stelle, ma ragazzi, 5 Stelle a questo punto pensa, se si andasse a votare subito vuol dire in primavera, di prendersi il governo, Flavia? Non credo che si voterà subito, in realtà tutti lo dicono perché lo devono dire, perché è ovvio che le opposizioni dicono sempre andiamo a votare subito, in realtà a votare subito non ci vuole andare nessuno. A mio giudizio, il 5 Stelle perché non sa come ne uscirebbe. Adesso non dimentichiamoci che nelle prove di governo, anche piccole, sul territorio del 5 Stelle finora non è che abbia brillato ed è possibile che se si trovano altri candidati giusti sia fortemente ridimensionato, perché poi in Italia gli italiani non è che vogliono il caos, gli italiani vogliono una classe dirigente che li ascolti in qualche modo, decentemente responsabile sulle questioni economiche, dell'occupazione, del lavoro, e che non si faccia soltanto gli affari suoi, come ha dato l'idea negli ultimi tempi di fare il governo Renzi. L'idea che sulla quale Renzi ha perso è la convinzione che si sono fatti una larga maggioranza del paese che tutta questa sarabanda messa insieme sulla riforma costituzionale fosse in realtà un modo surrettizio di incoronarsi super premier con superpoteri, con super vittorie alle spalle. Era un tema che al paese non interessava un granché, non era nella priorità dell'agenda, sì, evidentemente, della maggioranza degli italiani, cioè la maggioranza degli italiani pensava di occuparti di altro. È stato un grandissimo errore strategico proporre questo referendum e tirarla per le lunghe, per sì, e fare questa campagna elettorale. Questa è la riflessione che la politica un po' dovrebbe fare. Ah, certo, certo. E darsi un anno per aggiustare qualche cosa e in qualche modo riabilitarsi davanti agli occhi degli elettori. In ogni caso, noi tra poco riprendiamo dopo la pubblicità. Siamo partiti con 24 Mattino. Allora, vi siete addormentati la domenica con un governo di fatto saltato. Renzi ha perso, perché questo è il punto. Ha vinto il no con il 60% di fatto, e quindi Renzi oggi andrà a dimettersi dal capo dello Stato Mattarella. Siete contenti? Siete felici? Che succederà oggi? Scrivetecelo, cioè che succederà ora più che altro, al 349-238-6666, il numero WhatsApp. Noi siamo qui, riprendiamo dopo la pubblicità, state con noi. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Quattro mattino. Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita. Solo a partire dal dato della partecipazione, una grande vittoria della democrazia. Perché di fronte a un cambiamento così violento, così forte della Costituzione, 47 articoli, che il 65% o giù di lì degli italiani vadano a votare il 4 di dicembre è un fatto che non si era mai visto. Ma se c'è una partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma. Oggi ha perso l'arroganza al potere. Noi da domani inizieremo a coinvolgere, come abbiamo sempre fatto in questi anni, le migliori energie di questo paese. L'uomo solo al comando non esiste più. Beh, no, ci ha fatto contenti. Io oggi veramente devo dire, per me è stata una giornata bellissima. Pure vinto il derby, insomma, veramente era difficile. Una giornata perfetta. D'Alema, quanto rideva? Avete mai visto D'Alema? Avete mai sentito D'Alema ridere così? Ragazzi, la giornata, diciamo, perfetta. Ha vinto pure la Roma, perché D'Alema quello si riferiva, cioè, sì, 2-0 sì, della Roma, capito? Cioè, D'Alema sì, ieri sera ne è uscito veramente soddisfatto. Sì, va bene. Flavia Perina è con noi, Umberto Brindani, direttore di Oggi, è con noi. Abbiamo chiamato anche un uomo, io non lo so adesso se riesco a contenerlo, Maurizio Bianconi, buongiorno a voi, buongiorno. È un buongiorno? Sì, è un buongiorno. È un buongiorno, sì. Dice, è un buongiorno, Era tempo che non ne vivevo così, di buongiorno. eccolo lì. Ma Bianconi, ma adesso è lo sfascio, è il disastro. Faccio un po' ovviamente il verso, visto che Perina già ci ha detto che non è vero. È lo sfascio, è il disastro. Mattarella non sa cosa fare. Lo spread che ci guarda, i mercati che ci osservano, le banche che crollano, il Financial Times che è preoccupato, l'Europa ci scruta. Bianconi, e lei ride. Chissà come diceva i coglioni a Obama. Sì, Obama, no, Obama non c'è più. Obama. Ma insomma aveva detto anche lui di votare. No, dico, l'unica cosa che voglio rimarcare però, sì, perché io sono fra i primi che gli ha fatto la guerra frontale, sì, dichiarando chi era, che è uscito da signore. Oh, cioè, vedi. Cioè, l'aveva detto, uno che prende se ne va. Sì, insomma, non so se se ne andrà, perché ecco, bugiardo è bugiardo. Ma insomma, non è che è obbligato. Il siparietto l'ha fatto, è stato chapeau, insomma, ha fatto un bel discorso d'uscita, anche se ha detto molte inesattezze. Comunque non penso che vada via. Ma no, infatti, ma non è che penso deve... anzi che Mattarella sarà tentatissimo di reincaricarlo. E questo bisognerà vedere, però, se Brindani, capisce? Bisognerà vedere, qui sono gli scenari, bisognerà vedere se Renzi accetterà un eventuale reincarico. Magari Mattarella ci prova a dire, ma non è che ci riprovi, e lui dirà, secondo me, dirà di no, stante il discorso di ieri. Aveva detto anche che Letta non l'avrebbe mai toccato dopo 30 giorni. Ma adesso non è che può dire ieri sera io non voglio vivacchiare, e il giorno dopo dice ci ho ripensato, faccio un rinvio. Non vorrei essere equivocato. Ho detto che ha parlato da signore, ma resta il più grande bugiardo d'Italia. Eccolo lì, Brindani, hai capito? No, francamente, viste le dimensioni della sconfitta, non credo che lui possa adesso far finta di nulla e accettare. Mattarella, ovviamente, per ragioni istituzionali normali, dovrà offrirgli il reincarico, e io immagino, voglio sperare per coerenza, che lui lo rifiuti. Lo rifiuti. Però attenzione, su un punto Bianconi ha ragione, non è che Renzi prende, se ne va e scompare. Attenzione, qui tutti i giornali, la stampa lo dice per prima, in quel passaggio del discorso in cui dice sono pronto a ripartire, Flavia Perina potrebbe star lì, vedere che succede, magari si va alle urne e track mi ricandido, perché visto che è sempre stato detto non è mai stato eletto, lui sì. Le proporzioni del risultato secondo me rendono abbastanza complicato questo scenario. Questo era un scenario possibile se perdeva di 2-3 voti. C'è un solo precedente storico di una sconfitta referendaria di questa portata, che è quello con 20, quasi 20 punti di distacco, che è quello del referendum sul divorzio, che affossò Fanfani per un paio di giri, poi rientrò Fanfani, insomma, in qualche modo ripreso un suo potere interno alla Democrazia Cristiana. Però diciamo, ci sono delle regole della politica: quando uno perde in proporzioni così grandi è molto difficile che possa riproporsi a breve. Io non so quello che accadrà dentro il PD. Ho la sensazione che là il vero problema del paese sarà lo scontro interno al PD, perché poi è il PD che dovrebbe garantire... Cioè, per te Renzi ha finito politicamente la sua storia? No, non ha finito politicamente, ma sicuramente non potrà riproporsi tra 2 giorni come reincaricato o per un ruolo istituzionale. Se vuole ritornare nel campo, se la dovrà riguadagnare in qualche modo. Se la dovrà riguadagnare con le elezioni, questa è la verità. Certo, visto che è stato anche indicato sempre il fatto che al governo non è passato attraverso le elezioni. Sì, bisogna vedere che cosa farà il suo partito, il PD, capito? Perché poi di cui è segretario. Di cui è segretario. Là ci sarà la nota di Luigi Coltelli per 5 minuti. Su secondo i canoni. C'erano saltati tutti, ma come se sono saltati, mo saranno molto lenti a scendere. Bianconi è esperto del PD, di cose di PD. Sì, io penso che secondo i canoni tradizionali, sì, e quello che ha detto Flavia è ineccepibile, stando al personaggio e stando a un particolare che è sfuggito a qualcuno, che qui in Toscana hanno vinto, sì, e hanno vinto mi pare anche in Emilia, non lo so mica se anche internamente al PD lui prendeva a casa. Le dimensioni del disastro sono 6 milioni di voti, mi pare, di differenza. Adesso, ma perché dovrebbe lasciare anche la segreteria del PD? Chiedo, proprio dal punto di vista... Perché è finita la linea politica renziana, che non è proprio PD. La linea politica renziana è una linea di grande allargamento e apertura che è stata bocciata per il modo di fare... E faranno un congresso... Questo lo fanno, però, come posso dire, non è privo di fondamento quello che dice Flavia. può darsi che lo facciano prima del previsto. Voglio ricordare che in direzione lui ha l'80%, quindi la direzione non lo scavalla però, mai. Però adesso voglio da Bianconi dei giudizi, attenzione, perché qua ci sono i quattro nomi che circolano di più. I quattro nomi sono quelli del possibile governo tecnico. Cosa può succedere? Allora, Bianconi, oggi è stato un buon giorno, dice. Domani, mettiamo domani. Un domani. Si sveglia e trova a capo del governo tecnico Piero Grasso. Va bene, se vuol dire che dalla padella siamo caduti nella brace. Va bene. E se no invece si ritrova a Padoan. Metta la stessa brace. La stessa brace, un po' più di brace. Un pochino più. Attenzione a questo nome. Ce ne sono altri due, dai, mi piace questo gioco. C'è Del Rio. Del Rio è un candidato possibile, no? È un politico, quindi. Certo, è un politico. E comunque di grande continuità della politica venziana. Gli altri chi sono? Sono più tecnici, uno è un magistrato, uno è un economista. Esatto. E poi attenzione, ho lasciato l'ultimo perché Romano Prodi. È il capo del disastro. No, perché è il capo del disastro? Ma noi abbiamo due uomini in fuga sul disastro, Napolitano e Prodi. Rimettiamoci Prodi, così insomma, no, questi non scherziamo neanche. No? Guarda, non che qua sono sul giornale, su Repubblica. Sì, però lei deve capire, Milan, secondo me, questa non è una rivolta contro Renzi. C'era Renzi lì, ma in realtà è una rivolta del ceto medio impoverito anche dall'Unione Europea. Sì, Prodi è il simbolo di questa politica. Cioè, se la politica non capisce che non è più uno schema di PD e Berlusconi o Fini o D'Alema o gli ex o quelli davanti, ma è uno schema di una categoria, di un ceto di milioni e milioni di italiani che hanno capito che non hanno prospettive del domani, quindi sono pronti a impallinare tutti. Questa è una lettura interessante, Brindani. Si è parlato molto, Brindani e poi Perina, sull'aspetto della... No, quando si dice i populismi, è un altro voto, come dire, di persone incazzate, diciamo la verità. Lo traduco io penso che Bianconi abbia assolutamente ragione, perché il grande errore di Renzi è stato quello di non sentire l'aria che tirava, il vento del cosiddetto del populismo che tirava. Se tenete conto di quello che sta succedendo in Europa e nel mondo, Hollande ai minimi che lascia... Obama che perde, qualunque governo sia andato al referendum alle elezioni ultimamente, tranne l'Austria, sempre ieri, ha visto prevalere le destre, la protesta, il famoso voto di protesta. Questo è stato il grande errore di Renzi, non averlo capito. Poi ha perso però il candidato, ha vinto il verde, Van der Bellen. Dicevo, tranne l'Austria, sì. Tranne l'Austria c'è, come dire, una destra che avanza in tutto il mondo, e Renzi questo non l'ha capito neanche lontanamente. Sì, ma qua sono quelli di sinistra che gli hanno fatto la pelle, cioè anche quelli di sinistra, no? Ma hai sentito D'Alema? Ma guarda che se il no vince con il 60%, la percentuale di quel 60% che possiamo, come dire, accreditare a D'Alema, Speranza e neanche Cupero, perché Cupero all'ultimo momento si è sfilato, è minima. Cioè la sinistra si è messa in un gruppone, per non chiamarlo accozzaglia, visto che le elezioni ci sono state, in un gruppone nel quale non conta nulla, conta solo negli equilibri di potere all'interno del PD. Sì, però c'è da dire che secondo me stiamo un po' facendo, tra virgolette, il funerale a Renzi, che secondo altre letture potrebbe dire: ma guardate che io in realtà quel 40% di sì potrei ascriverlo tutto quasi a me, se è vero che si votava pro contro Renzi, e allora potrei ripartire da quel 40%, cioè il 40% di chi vota sta con me, ma mi candido domani e voglio vedere chi vince o no, Flavia. Questa è una possibilità di cui si era parlato prima del voto, e alla luce del discorso di ieri è un po' prematuro. Adesso si leccherà un po' le ferite, questo video o gioca alla distruzione e dice: adesso lascio fare all'accozzaglia, e quindi l'accozzaglia sia a cuocere il brodo, le consultazioni al Quirinale, tutto, non troveranno nessuna soluzione, non si metteranno d'accordo su niente, e quindi io dimostro agli italiani che in realtà era vero che l'unica alternativa all'accozzaglia, che non produce niente, ero io. Ma questa sarebbe una linea veramente distruttiva per il paese, penso, perché lascerebbe balia del caos il paese, oppure fare quello che dici te, cioè fare un passo avanti tra qualche settimana, puntare a una forma di reincarico o comunque tenersi stretto il PD, in modo da potersi riproporre come candidato premier magari fra un anno alle prossime elezioni. Certo. Io lo vedo un po' più indirizzato, sulla prima. Fate voi, adesso fatemi vedere che cosa fate vedere. Capace. Beh, sì, l'uomo è in grado di dire adesso vedete voi, andate avanti. Fatemi vedere che fate. Andiamo al traffico, poi non abbiamo affrontato un altro tema che ieri ha appassionato molto e se avesse vinto il sì sarebbe stato un trionfo di Gomblotti. Le matite che non scrivono, le matite cancellabili, il voto all'estero, che facciamo? Dove sono ricorsi, ricorsoni? Tutto a posto? Tutto a posto? Boh. Mattino. Vedremo di ricostruire sulle macerie che il Signore con la sua cerchia di amichetti ha lasciato, perché chiunque venga dopo di lui avrà una missione non facile, perché il dopo Renzi è un'emergenza nazionale. Questo è Salvini, il buon Salvini che chiede elezioni subito. Bianconi, tutto a posto? La matita funzionava? Ma sì, quelle sono le cose che si fanno e si dicono quando si vede un potere debordante su tutte le televisioni, da tutte le parti, tutti con lui, e si teme anche il broglio elettorale. D'altro canto la questione dell'italiano all'estero è stata una questione abbastanza scandalosa, il raid che è stato fatto. Detto questo, io volevo aggiungere io però una cosa che forse un pochino è sfuggita. Quello che vuol fare Renzi è chiarissimo. Renzi ha detto io non ce l'ho fatta a fare, ora tocca a chi è che ha vinto. Passa. E questo non è vero, tocca a chi governa, chi ha vinto per questa cosa. Invece lui dice guardate, a voi non vi è riuscito, ritorno io. Forse lui pensa di fare questo passaggio qui. La realtà è che lui ha una grande arma in mano, è quella che diceva lei. Cioè, l'arma in mano è il 40%. È logico. Ma certo, lui dirà il 40% ha votato. Se era un plebiscito pro o contro Renzi, esatto. Io ho il 40% di chi ha votato che mi vorrebbe. Mi avete bastonato, ho torto. Per me è una sconfitta gravissima perché pensavo di avervi conquistato tutti. Sembra Berlusconi, anche Berlusconi sì. Dice sempre così, che non capisco perché non mi danno il 51. E però il 40%, e se riesco a fare una proposta unitaria nella quale riesco a prendere tanta destra quanto arriva a Berlusconi, io ho una maggioranza per magari con un partito nuovo, cioè magari lui a dare un calcio partito Leopolda, che ne so, lo chiamassero Leopolda, comunque che questo vada a casa è escluso, no, ma 42 anni a casa non ci va. Ma infatti adesso va bene tutto, chapeau il discorso Flavia, va bene sì, tutto sì. Ma ti pare che sia uno che ha 42 anni no. Cioè per la cifra anche umana di Renzi che lasci tutto, dice basta, via. Ma 40... no, certo, è ovvio che ci proverà, però tutto questo a me sembra molto politichese. Qua o la politica si mette nello spirito degli elettori che sono andati a votare, cerca di capire quello che è successo, il tipo di crisi di sistema che c'è in Italia e si regola di conseguenza, ma se pensano di potersi riproporre semplicemente sulla base, cambio la legge elettorale, mi prendo e faccio due regali, do qualche altro 80 euro a qualcuno eccetera, al primo giro saranno bocciati di nuovo. Ma tutta la politica, anche quella di centrodestra, è di fronte a responsabilità nuove, deve capire questo voto, deve capire che c'è un difetto di offerta politica in Italia, che i cittadini vogliono altre cose e devi darsi una regolata, se no sì, magari galleggiano per un altro anno fino alle prossime elezioni, qualcuno vince, rigalleggia per 6 mesi ma sarà delegittimato alla prima circostanza. E intanto qua c'è Brindani, sai chi gongola? Vabbè, Salvini gongola, il 5 Stelle Grillo dice gongola, ma soprattutto c'è lui Brindani, Silvio Berlusconi, è la mia vittoria, ho riportato il 5% di voti. Vabbè, bisogna ammettere che i sondaggi anche stavolta non è che ci avessero proprio preso, perché anche gli ultimi giorni davano il famoso testa a testa, quindi sì. Forse qualche, se non il 5%, qualcosa anche Berlusconi con la sua presenza televisiva negli ultimi giorni ha spostato. Volevo solo aggiungere che in quel 40% non c'è solo il popolo di Renzi, ma ci sono anche tante persone che non ci stavano a vedere gongolare il giorno dopo Dini, Meloni, Berlusconi stesso, Grillo, eccetera. Quindi credo che Renzi farebbe un altro grosso errore se si ascrivesse tutti quel 40%. No, ma infatti non è proprio tutta roba sua, però è chiaro. La tentazione è quella di dire, soprattutto la tentazione è quella di dire che non è che me ne vado via. Adesso si leccherà un po' le ferite, questo è chiaro, no? Una sconfitta elettorale, aveva messo in campo tutto e poi ripartirà in qualche modo. Però Bianconi, dai, lì che siete in Parlamento a lavorare, sento già alle 6:53 del mattino del lunedì No, va bene, adesso non era una presa in giro, era... no, io però... e imputo la mia discreta fortuna politica al fatto che mi sveglio presto, al fatto perché, che si sveglia presto, sì, certo. Perché io alle 8:30 non me ne fregati tutti, capito? Loro si svegliano, io già penso a tutti i miei piani, perché la politica si sveglia tardi. Esatto, invece qua posso leggere tutti i giornali se vuole, dico anche i titoli, si faccia bello con i titoli dei giornali. Ma che succede, Bianconi, nel proprio il pronostico finale, pronostico, tra 48 ore che succederà? Il pronostico è che la Pevina ha detto la cosa più giusta del mondo, se non si danno una regolata va a finire male davvero. E io penso che Mattarella non ci sia su questo ordine di idee. Mattarella è un uomo molto tradizionale, io penso che lui offrirà l'incarico a Renzi e va bene, e mettiamo che Renzi lo rifiuti, e indicherà un suo uomo Renzi per fare un governo, cioè Padoan, siamo sempre io penso che e va bene, una volta che c'è il governo Padoan si farà, si ritoccano l'Italicum. Che noia, ragazzi. È così, non c'è, io parlo solo di politichesi, non di cose per la gente. Ritoccano l'Italicum. Io sarei dell'opinione se si riuscisse a fare quantomeno un pezzo di quella riforma e fare tutti insieme alla svelta la posizione del Senato. Va bene, ragazzi. Almeno quello. Va bene, almeno ragazzi. Saranno sei mesi a parlare di Italicum, di leggi elettorali, tutti espertoni, tutti i modelli svizzeri, modelli tedeschi, modello greco, modello finlandese. Preparatevi, amici, sarà un gran bell'inverno! Io ringrazio Flavia Perina, Umberto Brindani, direttore di Oggi, Maurizio Bianconi. E dopo rientriamo con la rassegna stampa. State con noi. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Allora, signori, sono le 7:20 minuti e di fatto si può dire, visto che ha vinto il no, che si apre la 188esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, che rimangono lì, visto che, appunto, come sapete, con il 59,7% ha vinto il no, dunque la riforma costituzionale non è passata, gli italiani hanno bocciato in questo anche di fatto il governo, se è vero che Renzi ieri ha annunciato a tarda sera che oggi salirà al Quirinale la Mattarella per rassegnare le dimissioni. Tra l'altro, poco fa, leggo delle agenzie, c'è stato un tweet anche del ministro dell'interno Alfano che scrive così: insieme a milioni di italiani abbiamo giocato una bella partita, l'abbiamo persa, è stato bello e giusto giocarla per l'Italia. Questo è il commento di Angelino Alfano. Ma insomma, in questa rassegna stampa ovviamente ci concentreremo quasi esclusivamente, non solo ma moltissimo, sulla lettura degli articoli, dei tanti articoli, commenti dedicati al referendum. E allora andiamo, caro Peter, forza. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a lunedì 5 dicembre e siamo con intanto i titoli. Il Sole 24 Ore, che oggi, ricordo, esce non la solita edizione del lunedì preconfezionata, ma esce tutto fresco